Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Questa volta posso dire che mi è accaduto qualcosa che non mi era mai accaduto prima. Sono incappato in un vagone in cui c'è un'intera famiglia senegalese. Padre, madre e un numero indefinibile di bambini che fanno casino, che giocano, che sono contenti. Sono tutti allegri, tutti felici. Sembra impossibile vedere persone così allegre, così soddisfatte della vita. E quindi non posso fare a meno che domandare a questa persona quale sia il segreto della sua felicità. Quanti figli hai? 4. Che età hanno? 4. Questo qua che sta parlando ha 1 anno 6 mesi. Che è più piccolo? Più piccolo, sì, si chiama Ibrahim. Ah. Invece l'altro è Mohamed, che ha 2 anni e quasi quattro anni. E Mustafa, Mustafa quanti anni hai? 6. 6 anni. 6 anni. 6 anni. E l'altro c'ha 16 anni. Ah, quell'altro è quello più grande di tutti. Vabbè, hai fatto una bella famiglia, fatto. Sì. No, grazie a Dio. Gianluca, io non mi lamento davvero, eh. Grazie anche a voi, l'Italia. Loro hanno la cittadinanza e io me l'hanno dato subito. Ho detto anch'io sono italiano come voi. Certo, sì. Tua moglie di dov'è? Mia moglie è dal Senegal, è mia cugina. In pratica ho sposato mia cugina. Ah sì, raccontami un po' come funziona. Ma tu da quanti anni sono che sei in Italia? Da quanti anni sono? Dal 94 sono entrato qua, 1994. Quanti anni avevi? 1994 avevo sui 22 anni, avevo 22 anni. E i primi 20 anni dove li hai passati? I primi 20 anni li ho passati tutti da Dakar, Senegal. Ecco, dimmi il ricordo più lontano della tua vita, quelle cose più lontane che ti ricordi. I ricordi miei lontani erano quando ero giovane con mio papà, perché ti avevo detto che mio papà aveva anche i cavalli, non so se ti ricordi. No, raccontami. Cosa facevi? Mio papà era uno sul villaggio, aveva tanti di quei cavalli che andava nei mercati a comprarli, quando arrivava faceva ingrosso, diciamo. Ah, commerciava i cavalli, è un commerciante di cavalli. Sì. Ecco, cavalli, mucca, tutte quelle robe, anche pecore, agnelli, ne prendeva così tanto. Io quando ero giovane andavo a studiare, ero come Mustafa. Poi quando finivo la sera andavo sugli animali, andavo a prendere tutta la cacca, le raccoglievo, le mettevo da parte. Cioè, aiutavi tuo padre? Aiutavo mio padre e poi la sera prendevamo anche dei grano turco, ognuno c'ha sua. Adesso questo qua che stiamo usando noi, la maschera questo qua, l'avevano già usato gli animali, mi ricordo quando ero giovane, e mio papà mi diceva prendi il gafaka, si chiama. Prendi il gafaka e vai da quell'animale lì, glieli poggi sopra la testa e lui c'ha la sua mangiare, che mangiava dentro. Ah, ho capito, sì. Quindi diciamo stavate bene, come famiglia stavate bene, diciamo, era un buon lavoro. Meno male, grazie a Dio stavamo bene, eravamo quattro figli e adesso tutti qua, noi tre siamo qua e l'altro femmina è giù in Senegal, però tutti camionari, diciamo. E come ti è venuta l'idea di andare via a un certo punto? Che ti è venuta dopo 20 anni? Dopo 20 anni di là, sai, l'Africa, sai com'è, cioè, vedi tanti tuoi paesani che partivano, arrivavano con le loro catenate d'oro, tu dici mamma mia, e dopo 2-3 anni li vedevi che hanno costruito la casa. E dopo io studiavo, dopo un po' ho detto a mio papà, cioè, fammi andare in un altro paese, si chiama Tuba. Di là sono andato a fare il commerciante. Pian piano ho preso mia borsa, andavo a vendere le scarpe. Ma cosa studiavi te? Avevi fatto studi particolari? In arabo. Sì. Studiavo in arabo, cioè quasi io andavo anche in Tunisia a studiare, perché mi piaceva da studiare. Però vedendo tuo papà e mamma, nel senso, non hanno casa bella, le altre vicine te arrivavano i loro figli dall'Italia o in Germania, che costruiscono delle case. Cioè, ho detto, ma io se continuo qua a studiare, non so, prima o poi lo avrò, però devo fare come fanno anche gli altri. Pensavi che potevi fare una vita migliore, ecco, avevi più occasioni. Migliore, come ho fatto anche adesso, Gianluca, guarda, non mi lamento, non sono pentito davvero. Io sono partito da zero, io avevo 3 milioni di vecchi di là, di mio paese, erano quasi 6 milioni di vecchie lire, ho avuto la visa, visto. Quando sono arrivato in Francia, ho vissuto in Francia da mio zio, e poi dopo un po' non andava bene le cose, sono venuto in Italia. Guarda, ti racconto anche una cosa che abbiamo fatto io e mio zio. Lui ha preso i suoi documenti, ha fatto un biglietto, io non avevo i documenti, io avevo la mia visa che era là scaduta lì in Francia. Lui ha fatto un biglietto, sono entrato dal treno, pian piano, quando sono entrato qua a Genova, come si chiama? Ventimiglia, sì. Ecco, bravo. Come sono entrato a Ventimiglia con mie valigie, mia giacca cravatta, sembravo un diplomatico. Ma come sei arrivato a Ventimiglia? A piedi è passato il confine? No. Mi ha fatto il biglietto. Ah, col biglietto, col treno. No, col biglietto suo, sì. Con il suo nome mi ha fatto il biglietto tranquillamente. Io sono entrato proprio in Italia. Ho detto, ma pensa te se mi beccavano con il biglietto in nome di mio zio, che lui c'ha la cittadinanza francese. Però ti eri vestito, diciamo, da persona importante, quindi nessuno ti ha pensato di fermare. No, perché quando mi vedevi giacca, cravatta, tutto bello, cioè bello raffinato proprio. Sembravi, che ne so, un uomo d'affari. E però in tasca c'avevi 6 milioni di lire più o meno, per un po' ti bastavano. Perché dovevi avere anche l'argent de poste, si chiamava. Sì, devi far vedere che avevi un po' di soldi, sì. E quando partivi già dal Senegal ti dicevano devi avere quei soldi lì. Anche se non hai quei soldi lì, fatelo prestare di là. Quando arrivi qua devi anche restituirlo con la persona di là. Tutto questo per arrivare in Italia per migliorare la tua vita. Ecco, qual è stato il primo passaggio che hai fatto? Il primo passaggio. Duro, Gianluca, davvero. Perché quando io arrivato non sapevo neanche la lingua. Parlavo il francese, però man mano che andavo avanti, pian piano, nel giro di 6-8 mesi già mi arrangiavo con il francese. Pian piano, e dopo hanno messo una legge sanatoria che ha avuto i documenti, 97 mi sembra, 96-97, la sanatoria. Poi quando ha avuto i documenti è andato a fare piastrellista, dopo dal piastrellista è andato a fare... Ma come hai imparato a fare quel lavoro? Già lo sapevi fare o hai imparato così? Ti sei inventato? No. Guarda, io mi son messo le mani proprio, io ho imparato tutto qua, Gianluca, piastrellista, camionista, metalmeccanico. Tutti quei lavori lì che ho fatto io, e grazie all'Italia e grazie anche ai miei genitori che mi hanno dato anche dei consigli. Quando vai là, mettiti tutto tua testa per lavorare, perché tu devi metterti in la strada. Io quando ho venuto qua ho vissuto delle cose che non... Se ti racconto del freddo che io avevo preso qua. Ecco, e dove dormivi? Diciamo, la prima sistemazione com'è stata? La prima sistemazione avevamo di associazione senegalese qua a Legnano. Sì. E loro avevano delle case, in pratica vivevamo cioè una cameretta ci stava in 4 persone. Però avevi, diciamo, una rete un po' di protezione, di connazionali che ti aiutavano, non stavi solo. Già c'era mio fratello, per cui io non avuto problema. E mio fratello c'era già da 2-3 anni prima di me. Poi quando sono arrivato da lui mi ha offerto un posto letto. Un posto letto, pian piano. E poi quando io ho fatto muratori, nel frattempo che faccio muratore andavo a studiare a scuola per capire più bene l'italiano, che in pratica non paghi niente, erano a scuola gratuiti lì a Legnano. Ogni sera finivi di lavorare, andavi là e facevi 2 ore gratuitamente. Pian piano mi sono imparato. E dopo continuavo a fare metalmeccanico, la patente del camion. África das Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar ou ir pra cotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto bom dar tempo, o ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Tu sei sempre riuscito a lavorare, diciamo con buona volontà hai sempre trovato un modo davvero, di lavorare. Sì. Davvero, io mi sono bucato le mani, davvero, non ho mai trovato senza lavoro, Gianluca, grazie a Dio, grazie da mio mashallah, grazie a Dio. Io sto dicendo mia moglie adesso vicino a me, mi fa grazie a Dio. Quando ho detto quelle parole lì, lui ringrazia Dio, perché non è solo per me, l'ho fatto io. Dio che me l'ha fatto, di dirmi devi fare questo e questo per metterti in strada, troverai questo. Se io volevo, potevo anche venire, andavo a vendere altre cose. Sai quello che vendono altre cose? Sì, e guadagnavi, sì, certo. Guadagnavi di più, portavi anche la pagnotta a casa, fai dei condomini là, dicono che lavoro fa di là. No, io non volevo quei soldi lì. Io diciamo che così hai fatto una vita faticosa, ma tranquilla, cioè nessuno ti viene a cercare a casa, puoi fare la tua vita, è quello il fatto, è diverso. Cioè, fai una vita serena. Serena, io quando arrivo a casa faccio la doccia, cioè sto qua, vedo anche i miei bambini che giocano, io sto là al mio divano, non c'è nessuno che mi viene a bussare la porta, Samba, guarda che... Come la famiglia dei Simpson, perfetta, famiglia perfetta. Beh, però è bello sentire una persona così contenta, così soddisfatta, figurati. Senti, raccontami però, scusa, adesso devi raccontare il passaggio fondamentale. Come è avvenuto che poi ti sei sposato tua cugina? Perché avevi una scelta immensa, cioè tu stavi in Italia solo, libero, potevi prendere chi volevi, sei tornato a prendere tua cugina, questa me la devi spiegare, senza che sente tua moglie magari. No, lo sto sentendo, sto già ridendo anche sotto. No, che scusa, uno c'ha tutto il mondo davanti e va, torna a casa e si prende la cugina. Questo, e non lo devi spiegare, non lo devi spiegare questo, perché devo capirlo. Lo spiego, perché sai come funziona giù? Non lo so, perché non lo so. Perché... Quando sei giovane, cioè tramite i genitori, quando uno nasce, già si è femmina, mettono un braccialettino. Io quando lei, questa qua, mia moglie qua, questa donna brutta, questa qua, sta ridendo. Ma scusa, ma tu praticamente eravate già sposati da bambini, già avevano, diciamo, erate promessi sposi? 16 anni l'ho sposato. Io quando io andavo su, come si chiama, battesimo? Sì. Quando è nato, io ho preso il mio cavallo, sono andato proprio a vedere il suo battesimo. Sai quando è nato che gli danno il nome? No. Cioè, nasce la bambina, tu vai lì e dici, questa me la sposo fra 15 anni. Ma ecco, l'hai beccato. No, però che devo dirti, alla fine uno c'è una sicurezza. Tu l'hai vista appena nata, l'hai portata a battesimo, questa me la sposo. Giuro sui miei figli, credo, io sono andato con mio cavallo, l'ho parcheggiato davanti a casa della mamma, io ho entrato tranquillamente, ho visto, ho messo il mio braccialettino, pian piano, quando è cresciuto adesso ce l'ha con me, con i quattro figli. Cioè tu praticamente cambiavi il pannolino alla bambina e dici, questa fra 20 anni me la sposo, cioè così, la fa ridere però. E ride anche lei. No, non dirmi Fabrizio intanto, dopo mi manda dei messaggi. No, però è divertente questa cosa. E quindi quando sei venuto... È incredibile, perché quando uno lo racconti qua in Italia, dico, ma sei matto? No, sei matto, è un uso diverso. Che vuol dire? La tradizione tua è fatto bene a fare quello che fanno l'altro. Quindi quando sei venuto in Italia eri già sposato te praticamente, la moglie già ce l'aveva. Sì, avevo già sposato, soltanto il primo anno che avevamo fatto, poi è nato il bambino. Quando l'hai portata in Italia la moglie? Nel 2010 è arrivato. Quindi è stata, diciamo, un periodo che è stata sola e tu stavi qua, la vedevi poco? Come no? Ogni anno, io andavo una volta all'anno, infatti mi diceva mio capo, ogni anno che vai mi fai danno, tu vai in Senegal, fai... Quanti mogli hai giù? Perché tu ogni anno vai. Andavi giù, facevi un figlio e tornavi praticamente. Vabbè, questo è... Ma sai cosa ho fatto un giorno? Un giorno è entrato dall'ufficina, ha preso una tenaglia, mi fa, vieni qua Sambo. Vieni qua, quando l'ho detto, è nato questo qua all'ultimo, mi fa, questa è l'ultima volta che se le dico questo qua, se lo devo tagliare. Vabbè, però scusa, è logico, tu andavi una volta l'anno, poverino, che dovevi fare? Anzi, devo dire. Comunque è una brava donna. Brava, sì, ti ha aspettato tutto quel tempo vedendoti una volta l'anno. Sì. È brava, davvero, sì. Davvero. E sentivamo, ti ricordi, ai tempi non avevamo neanche Skype, tutte quelle robe lì. Avevamo solo la scheda telefonica, compravi 5 euro, 5.000 lire o 5 euro. Diciamo, andavi là, grattavi sui cabine telefoniche fuori, lo grattavi e mettevi il numero e stavi lì a parlare 10 minuti, 15 minuti. E questo adesso era il massimo. Però pensa che bella storia d'amore questa, per tutti questi anni si è accontentata di sentirti così al telefono con la schedina a pagamento, una volta ogni tanto. A pagamento, no, adesso io ho mia Skype, mia mamma l'ho appena sentito stamattina, ogni mattina mia mamma mi manda su WhatsApp, come stai, bene, poi mette il suo, anche lei, cioè, non sa neanche usarlo, però c'è lì la nipotina che mi fa dei video e me lo manda ogni mattina, quando salgo sul camion già trovo sua qui tu video. Comunichi con tua mamma in Senegal con Skype, con i video, con WhatsApp, con i video. Ogni tanto sull'autostrada faccio un bel filmato, glielo mando, mamma guarda sto guidando, mi risponde lei e mi dà anche dei preghiere con questi momenti qua che stiamo vicendo. E tua madre cosa fa? È rimasta nella casa di dove eri bambino? La casa vecchia proprio. Ma sta con i tuoi fratelli, con qualche tuo fratello o è sola? Che è lì la sua sorella che vive dentro la casa, in due, loro due. Sì. E noi ogni anno andiamo giù, una volta all'anno andiamo giù a trovare. I cavalli non li tenete più, no? Li tieni no, quelli lì ormai Gianluca, ormai già da quando sono entrato in Italia fino adesso non ho più toccato, anche di più, non ho più. Ma è cambiata molto la vita in Senegal rispetto a quando tu sei andato via? L'economia, la vita sociale è molto cambiata? Tutto cambiato. Io quando ritorno giù che vedo delle strade che dove andavo a giocare palloni, dove andavamo a fare delle corsette, cioè mi viene da piangere ogni tanto, mi viene proprio da piangere. Ma perché... cambiato come? Raccontami la differenza, tipo com'era la vita quando eri piccolo te e come la vedi oggi a distanza la di questi vita anni? Quando ero piccolo era purtroppo difficile perché eravamo in quattro, mio papà faceva commerciante dei cavalli, così ogni tanto qualche cosa entrava, qualche cosa non entrava. Il mio papà aveva anche tre mogli, figurati Gianluca. E le tenevate tutte in casa insieme, stavano le tre moglie? Io ho altri fratelli che ognuno è lo stesso papà mio, quindi... Ma come funziona? Le chiami tutte mamma, anche le altre mogli? Mamma, sì. Ah. Da noi lo chiamiamo mamma. Invece quindi c'è avuto tre mamme praticamente, hai avuto te? Tre mamme, sì. Uno avrà quattro figli con mio papà. E con Skype e soltanto però con la mamma, quella diciamo di sangue, ci parlo, anche con le altre? No, tutte, mamma di sangue, e voi anche, ogni tanto voi anche più bene dell'altra mamma, perché non c'è la differenza. Certo, è complicato, la festa della mamma per te è un disastro, cioè ce n'hai tre mamme da dovergli scrivere. Oh, prendo tre fiori, dice, mamma uno, te, mamma due, te. Ma tu potresti anche prendere un'altra moglie se vuoi, no, non si può. Se lo senti, diciamolo piano che ce lo senti. Potresti, sì, però potresti. Volendo posso avere fino a quattro, però se mi sente stanotte non mangio perché... Ma come fai? Tu potresti sposartela in Senegal e poi le porti qui, però qui in Italia non puoi avere più di una moglie. Non puoi. Perché vabbè, le tieni in casa, dici sono amiche, che ti devo dire? No, però dimmi una cosa, ma per capire, perché noi non possiamo capire questa cosa, non abbiamo esperienza, ma è complicato avere tante mogli? Cioè gli amici tuoi, tuo padre, qual è la differenza fra avercene una sola? Ma non c'è differenza, No, ma è complicato perché tu quello che fai una le fai anche alle altre, quindi fai un regalo a una e le falle alle altre. Due scarpe, due collane, due anelli, quello che prendi per una devi prenderlo sull'altra. Però qualche volta trovi qualcheduno che ha la preferenza da un altro, perché tante volte magari tu sposi uno, questo qua si invecchia, poi vai a prendere quella l'altra più snella, più giovane. Però quella più vecchia non è che la butti via, te la tieni. No, voglio sapere come funziona, non lo so, come funziona. No, non le butti via, li tieni da parte e non è... Cioè, non si offende, non si arrabbia che porti una donna... No, per carità, perché sono sorelle, loro, tre di loro, se sono d'accordo, sono come sorelle, cioè non tre di loro, però se non sono d'accordo, lì è guai, si buttano anche l'acqua calda, vanno a prendere anche l'acqua... Quindi diciamo, prima di trovare una nuova moglie, tu devi stare molto attento che vada d'accordo con quella precedente. Bravo! On tables, hotel streets, and ships that sail. We swim with sharks and fly with aeroplanes in the air. Sitting in the trunk, it's the marching wheelchairs. Open the blankets and give them some air. Swords and eye, cheekbones and cement, the light in the dark of the innocent of man. We know your house so very well, and we'll wake you once we've walked up out your stairs. There's nothing like living in a bottle, nothing like ending it all for the world. We're so glad you have come back. Every living line will lend your lap. Kid has a homecoming, the champion, the horse. Who's gonna play drums, guitar, or organ with chorus? As far as we walk from both ends of the sand, never have we caught a glimpse of this man. We know Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Però è importante, guarda, devo capire la differenza. Quando uno si stufa di un rapporto, se ne trova un amante, si trova un'altra donna. Per voi invece siete molto più coscienziosi. Ti sposi un'altra donna e dici ho sposato un'altra donna. Un'altra donna, e lei era d'accordo, quello di prima non dirà niente, se è gelosa lo tieni dentro, però a volte vuoi delle cose che magari scaldare l'acqua, devono essere d'accordo, se non sono d'accordo devi avere due case, uno lo lasci qua e l'altro là, se no casa tua sempre fuoco. Cioè litigano sempre, certo è un disastro. Sempre. Però se tu magari compri delle cose, falli due cose. Fai due cose belle, magari quando sei seduto sulla poltrona, una a destra, una a sinistra, non devi avere il capello. Aspetta, se ce n'hai due, ma se ce n'hai quattro come fai? E una davanti e una dietro, come fai quattro, scusa? Tu ridi, ma voglio saperlo, come fai con quattro? Ridi. Se hai un'possibilità di andare in Senegal, io ti farò vedere. No, un giorno ci vado, un giorno che ci vai... Se me lo dici, ti accompagno. Sì, non ti preoccupare. Un giorno che avrai possibilità di andare a visitare Senegal, ti farò vedere dei amici che hanno quattro mogli e non se ne frega neanche, nel senso non hanno peso. Cioè loro... C'è anche da dire che anche le donne si stancano di un uomo dopo un po'. Alla fine sono tutte contente che venga un'altra e loro si rilassano un po', forse è così. Infatti, perché tutto il lavoro in casa ce l'hai sempre te se sei da sola, invece avendo la seconda, due giorni devi far mangiare, lavare, vestire tutto il tuo marito, poi l'altro due giorni tocca l'altro, anche in casa, quando di notte fai due giorni qua, due giorni qua, due giorni... Ma come fai? Quello tiri a sorte, vediamo, tiri il bigliettino, stasera tocca la numero uno, come funziona? Ma come decidi questo? No, perché lunedì, devi partire da lunedì. Lunedì e martedì da uno. Martedì, mercoledì, giovedì dall'altro. E non si può cambiare, che ne so, sempre no, fine. No. Anche se vai là che non è un granché, devi star zitto. E quello lo stabiliscono loro, quali sono i giorni destinati? Sì, perché però devi dare la prima moglie devi darle i primi due giorni. E la seconda moglie devi darle i secondi due giorni. Cioè la prima è lunedì e il martedì? Sì. Ma sono i giorni più sfigati. Il lunedì uno non c'ha voglia di far niente. Cioè vince chi c'ha il venerdì, sabato e domenica. Quello è il leone proprio. No, scusa, fammi capire, no? Quella del lunedì, perché la prima prende il lunedì, che è il giorno peggiore, ritorni a lavorare. Perché tu però è diverso il giorno. Te domenica non è un giorno normale per te. No, il giorno domenica è il giorno normale per me. Il venerdì è il giorno importante. Importante, se il giorno di venerdì santo non e poi il venerdì puoi far niente, quella che si becca il venerdì sta l'asciutto. Non è così. No, adesso parti scherzo, mia mamma, perché lo sto dicendo piano, mia mamma, la casa giù è tutto a posto, i camere sono tutti vuoti, mia mamma vuole fino a quattro, mi dice, portami altri perché qua siamo da soli, non... Vuole che io li porto altri due di là, così rimangono là da lei e li fanno dei... Cioè vuole che tu sposi altre due donne e le lasci a casa di tua madre? Sì, bravo! Senza che loro vengano qua, ogni anno magari... Scusa, ma è una paraculata, invece che prendersi delle donne da pagare, si mette le mogli del figlio. Non ho capito. Ogni mattina quando mi manda un messaggio mi fa, mi raccomando, la casa è vuota, qua bello pulito, le camere sono vuote, perché qua vedo anche delle belle ragazze, faccio mamma. Aiuto, devi sposare una, cosa la metti in casa, aiuta. Vabbè, a te che ti costa? Scusa, alla fine che ti costa te? E che mi costa? Io ogni anno vado là. È che la devi anche mantenere, tanto dovresti pagare. Infatti io stavo dicendo, ogni anno, ogni mese, quando prenderò il mio bus a Parola, pago quello che devo pagare, mantengo qua i bambini che sono qua, quello che rimane, non è quello che rimane. Ma tua moglie sarebbe d'accordo che ti sposi un'altra per darla a tua madre? Sarebbe d'accordo lei? Non è d'accordo. Stringerà il cuore, perché le donne... Vabbè, vorrei vedere. Non te lo dicono, però... Ma poi ormai lei è abituata, scusa, lei ormai è abituata a stare qua in Italia. Un po' anche avrà cambiato, anche vede tutte le sue amiche. Certo. Fine, è un po' difficile. Ha fatto la patente, studia... Adesso sto studiando per fare per il corso di badanti, tutte quelle robe lì, per poter avere lavoro, perché già lavorava in Malpensa, incasinati questi mesi. Adesso devi cercare un altro lavoro, perché di là facevano... Quindi è una donna molto emancipata, ormai è una donna a tutti gli effetti, sì, sì. Fa la vita che fanno, sì, le altre donne, sì, qui in Italia. Non c'è No, questo qua, guarda Gianluca, io non posso dire niente di lei davvero, perché mi ha aiutato tanti, mi aiuta tante volte. Vabbè, è una santa donna, scusa. Per quello ho paura anche mia mamma di portare l'altra moglie. C'ha sempre questa spada sulla testa, che tu se vai lì un giorno ti sposi un'altra, cioè fammi capire, non è una cosa che ci vivi tranquillo. Poi quello che sposi di là li trovi male, e questo qua era il migliore, cioè devi sempre guardare. Ma tu la troveresti subito, figurati, hai altri cugini, altri parenti, chi c'hai da sposare? Tu chi avresti da sposare? No, mia mamma che gestisce. Ah, lei già ti ha trovato, diciamo, già ha fatto un casting. Me l'ha detto, mi fa, guarda che io già, se non preoccupate che io già ti manderò anche le foto. Te l'ha mandata le foto? Non ancora, però io volevo, cioè, prima vedere il cammello, come dice quello là, prima vedere il cammello. Quindi hai già preso la decisione, più o meno? Insomma, con questi tempi qua no, ma quando passeremo questi momenti qua... Però scusami, prendere un'altra moglie significa per te devi lavorare di più, perché devi mantenere un'altra famiglia, questo a tutti gli effetti. Come no, che non è, qua già faccio fatica. È apposta, come fai dopo, scusa? Quello magari, cioè, se lei li troviamo un lavoro, perché un'attività puoi aprirlo di là, apri un negozietto di là, che lei ogni mese che gli versi qualcosa, lei lavora di là. Scusa, ma non fai prima a dare uno stipendio a una ragazza che aiuta tua madre? Cioè, meno fatica. Così almeno quando ti stanchi la licenzi, cioè invece una moglie di tenertela per tutta la vita. No, non lo so, cerco di capire con la mia testa. No. È giusto, però per la religione, non, cioè, se hai possibilità di farla, sì, devi farla. Non è che devi prendere una donna e li lasci lì tua mamma per curarla, no? Prendi una donna, lo lasci a casa, sei tua moglie. Tutti gli effetti. E i tuoi fratelli hanno più mogli anche loro? Oppure... Il mio fratello, uno ce l'ha uno, l'altro ce l'ha due. E quelle non bastano a tua madre, quella di tuo fratello non gli basta? Perché loro lo fanno come onore, capisci? Quando beh, lei c'ha quattro stanze libere, deve riempirle tutte e quattro, è quello fatto. Tutte e quattro. Lei vuole la casa bella piena, cioè quando arrivano altri ospiti, altri amiche, e devi farli vedere anche questa moglie di Sambo, questa moglie, sai. È una cosa che... No, lo capisco, sai, è un'usanza diversa, per capirla, me la racconti te, la capisco. Come dici qua in Italia, dicono, ma te sei pazzo, prendermi due mogli, uno lo lasci là. Se tu sei nato in un posto che funziona così, che devi fare? Io però, questi qua che sono nati qua, che sono questi, prima o poi, non faranno come abbiamo fatto i nonni. No, l'importante è che le donne sono d'accordo, che non sono costrette, se sono d'accordo... Bravo, no, devi essere d'accordo, perché prima o poi, se non sono d'accordo, giro di 6 mesi e già c'è il divorzio, te lo dico subito. Cioè, la donna deve essere d'accordo. Ah, se dopo 6 mesi non è contenta, ti può lasciare. No, la donna, dico, cioè, la donna che tu, mia mamma che mi dovrà presentare, diciamo, se la donna non mi ama, quello lì, perché tante volte fanno dei matrimoni forzati, quindi... Se tu prendi una donna che magari tua mamma o tuo costretta, zio, ecco, vi vivete fra 6 mesi e poi rovina tutto. Cioè, devi tutte queste cose qua le devono anche vedere anche loro, perché non è prendere e dare così, non è giusto, perché il cuore c'è a sua parte, anche alla ragazza che io prenderò un giorno magari mi dirà te l'hanno dato a me, però a me non piacevi. Ma di questo ne parli mai con tua moglie, di questa cosa? No. No, ci parlo. Lei è aperta. Lei è... A te quando mi dice ogni tanto, mi dice... quando prenderai la seconda dimmi che te lo vado a scegliere. Ho detto no, non mi sceglierai niente perché mi porterà qua una carogna. Ma non la puoi portare in Italia, però non potete portare due. In Italia non credo che si possa essere bigami, no? Si può portare, però non viene come moglie, viene come un ospite. Ah, viene come un ospite, poi... Come un ospite, io ho la cittadinanza, posso farlo la... Ma non puoi fare il ricongiungimento, non può essere... Ricongiungimento no, ma un ospite può venire qua 6 mesi. A mia moglie non è mia, è da cabeça dela, mesmo achando che sì. Não precisa de mim, isso é o que me agrada nela. Não deseja ser o meu mundo, mas tem-me em seus desejos. Eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras. Voa com seus pássaros fantásticos, agnósticos, simpáticos por campos de razões, e quando volta traz-me caramelos. Ela não se põe à janela de corpo iluminado, mas mostra o universo aos animais de caça quando desce ao mercado. Desce nos cabelos das estrelas, bem nas barbas dos fantasmas que aprendeu a desmontar, e acaba a transformá-los em brinquedos. A minha mulher não é minha, é da cabeça dela, mesmo achando que sim. Não precisa de mim, isso é o que me agrada nela. Música. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Faccio un conto rapido, prendi altre due mogli, sei mesi per una, c'è sempre due mogli tutto l'anno, così. Tutto l'anno, certo. Una sei mesi, la rimandi alla tua madre, torna l'altra sei mesi, c'è sempre due mogli, una ospite e una vera. E una moglie prima. Ospite. Però per i documenti non puoi fare, diciamo, c'è solo un documento. E beh, infatti, quella sta sei mesi, dopo sei mesi torna, viene come turista. E poi viene quell'altra, o anche tre al limite. O anche quattro, e così stanno tre mesi l'una come turiste. E no, quindi fai puttantura. Vabbè, sono mogli, che vuol dire, scusa? No, lo scherzo, però io ho grande rispetto, se questa è la tradizione, ma funziona, diciamo, questo sistema funziona, diciamo, è unita la famiglia in Senegal, al di là di quello che per noi sembra strano perché non ci siamo abituati, comunque è un'istituzione che regge così, funziona, diciamo, l'unione familiare funziona. Davvero, funziona benissimo, soltanto c'è qualche ogni tanto cosa storta di una famiglia, però sai, non tutte le persone sono uguali, c'è tutto il mondo paese, però da noi due di moglie di miei fratelli, quando vai giù sono lì e li vedi come le sorelle, non hanno quelle gelosie lì, dice, è solo questione, è una tradizione locale, cioè se sono sempre abituate così da generazioni le persone, bravo. Secondo me, guarda, questo è il mio punto di vista, non esiste un modello assoluto, cioè non è manco detto che la cosa migliore sia che due persone si sposano e stanno insieme tutta la vita, che ne so, ognuno poi la pensa come vuole, sì, se funziona, infatti, però... è che non funzionerebbe qui da noi perché la società è organizzata diversamente, una moglie sola basta, cioè, oppure vai come hai detto te, un lamantino, una lamantina, vabbè, quello lo fanno tutti, sì, però quello non è istituzionale. Quello diventa, ma quello crea comunque ancora altri problemi, che difficoltà, infatti perché quando entri col giro lì l'amante, cioè, rovini la famiglia, perché prima o poi se ti becca la moglie sì. Poi magari ti butta fuori di casa, vai sotto i ponti e ricominci da capo, certo. No. Sì, quindi, come hanno fatto qua in Italia, è giusto, mettiti uno e gestisci uno, basta, non te ne andare a prendere l'altro. Poi dopo, tutti i omicidi, come si chiama, femminicidi, che senti, tutte quelle robe lì, succede che magari uno... la gente è bella, sì. Va dal bar al posto del lavoro, trova una bella ragazza, invece aveva la moglie, cioè pian piano succede dei casini. Vabbè, oddio, sarebbe il contrario, in effetti... oggi in Italia chi ammazza le donne l'ammazza perché è un barbaro, non è una cosa che... Io quando vedo di quelle trasmissioni dico, ma questi qua non è un cuore, cioè... Lo so, sono situazioni molto brutte. Mi viene a portellare i 60 quartelli, quartellati. Sai, perché non si rassegnano che le donne non li vogliono più, è diverso, da voi avete regole diverse, certo. Le persone accettano quelle che sono le regole, poi avete, tu sai che hai... questa grossa cosa che è la religione, per te la religione è l'asse portante della vita, quindi è diverso per te, sei nato così. Molto diverso, se tu entri proprio in Senegal, tu dici magari questi quattro qua seduti, magari sono... no, questa magari sono tutti lo stesso marito, seduti, tranquilli, con tutti i belli vestiti, uguali. Quando hanno da far da mangiare, quattro giorni, questo qua tiene da mangiare, va al mercato, pulisce, poi quando finisce i suoi quattro giorni tocca all'altro, cioè fanno i turni anche sul mangiare, non è che mangiano, che cucina solo uno tutti i giorni, no, ogni quattro giorni una moglie fa mangiare per tutti. Ripeto, dal mio punto di vista è una cosa complicatissima, io non riesco... ma è diverso proprio l'Italia, Gianluca, cioè, sì, da noi il nostro usante è qua, molto infatti quando arrivano qua i primi, cioè, magari porti la moglie o qualcuno, quando vieni qua dici ma qua è no, lo so, perché a me è già difficile abituarmi a una persona, figurati se mi abituare a due, tre, quattro. Già è complicatissimo, non lo so, quello poi sono punti di vista, capito? A me me lo dici, io quando prenderò la seconda, non so come abiterò. Ma come i tuoi figli come verranno su? Che scelte faranno secondo te? Anche loro quando saranno... Loro hai già scelto le mogli per i figli, ad esempio? No, al momento no, al momento sono ancora piccoli, però con la 16 anni... Gli tocca una cugina. L'amore che troverà qualche cugina in giro, perché qua a Bergen ne abbiamo tanti di quelle cugine, perché sua sorella vive là a Caravaggio, sorella di mia moglie. Ma voi cugine, ecco, per voi, ma cugina proprio cugina vera o cugina perché parente? Nel senso che cugina, la mamma di miei figli è una sorella. La sorella, sì, la sorella è lo stesso mamma e papà, proprio cugini. Quindi diciamo preferibilmente uno si sposa la cugina. Sì, però qua non si usa perché dicono esce fuori il bambino. Beh, da qua c'è un proverbio, dice non c'è cosa più divina, però non sposare proprio la cugina. però è una cosa passeggera, non è che te la sposi proprio. No, io l'ho fatto, cioè nel senso... Sì, vabbè. L'ho fatto, mi sono arrivati e grazie a Dio sono qua, adesso stanno giocando. Cioè, ognuno, Dio come crea. Ma questo qual è il principio dietro? Per mantenere, diciamo, unita una famiglia, che non si disperde la famiglia. Sì, per non disperdere la famiglia. Anche da noi si faceva anche così, Anche i miei, dei nonni così. Per non dividere la terra, per non dividere... La terra, in più il cognome, sempre Sam. Quando tu magari vai a sposare un altro, si chiama mia moglie, il cognome fa Diop, tutti mia famiglia Sam e Diop, cioè quando vai in giro Sec e Diop. Sempre lo stesso cognome o di uno o di l'altro? Lo stesso cognome, in più quando nascono anche i bambini gli danno anche dei nonni, bisnonno e zio, cioè rimani sempre con cognome. Però perdete il conto, alla fine se la gente vive molto chiami uno ti rispondono in quattro perché c'ha lo stesso nome e lo stesso cognome. ad esempio il mio papà quando è mancato 11 anni fa, cioè io volevo chiamarlo, cioè, di avere un figlio da chiamare, però mia moglie quando sono nati così qua li ha scelti da altri nomi, quindi io prima o poi quando avrò la seconda che arriverà un maschietto mio papà, nome di mio padre. Vabbè, senti, mio padre rimarrà sempre vivo. Ti vedo già abbastanza incasinato con la famiglia che c'hai, spero di rincontrarti un'altra volta, così c'erai il doppio dei figli e il doppio delle mogli, voglio vedere, ti ci vorrà uno scompartimento di treno solo per te. Facciamo una trasmissione, davvero, quando ce l'avrò chiamiamoli, ma che è arrivata la seconda? Sì, però voglio parlare anche con tutte e due le mogli dopo, voglio sentire che dicono. Vabbè dai, per me il viaggio è finito. Salute, ciao, salutami ciao. Tutti, figli, mogli, cugine, ciao, zie, mamme, prime mogli, seconde mogli, nonne, nipoti, parenti, tutti. Ciao a tutti, ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao bambini, ciao signora. Preparati, fra un po' ne arriva un'altra. Ciao, arrivederci. Ciao. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. When it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time, and I look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fear, and I know upon my body the memories of your devotion. I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh, and I feel ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.